Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, una grande Fiorentina e una piccola Inter, un'impresa contro una squadra a vocazione europea doc come il Liverpool, una prova grigia e alla fine di pura sofferenza nell'ultima mezz'ora contro una squadra debuttante in Champions. I commenti vostri arriveranno, immagino, numerosi, e come sempre dopo serate di questo genere. I commenti dei protagonisti li ascoltiamo un po' alla volta. Comincerei dal protagonista assoluto della serata di ieri, che è stato senza dubbio Jovetic. Penso che questa è stata una partita bellissima e anche molto importante per questa gente, per città, per tutti, soprattutto per noi. Penso che abbiamo fatto molto molto bene e alla fine abbiamo vinto 2-0, che è molto importante. Sinceramente no, non aspettavo così, ma sono molto contento e spero di continuare così. Beh, insomma, uno che ancora deve compiere 20 anni e che fa questo salto di qualità, no? Rispetto al talento che già non era discutibile prima, ma fa questo salto di qualità, di rendimento in una serata, in questo periodo in generale, ma in una serata così importante e contro avversari così difficili, magari non in grande serata, però insomma avversari così difficili in particolare, è uno che effettivamente al futuro può pensare in un certo modo. A differenza di un altro giocatore invece, il cui, e sto parlando di Balotelli, il cui futuro insomma sembra sempre più complicarsi anziché semplificarsi. C'è Jovetic, vede spalancarsi un'autostrada dinanzi a sé, invece la corsia di Balotelli sembra chiudersi. Restiamo a Firenze per il momento e raccogliamo la giusta, sacrosanta soddisfazione di Prandelli. Primo tempo siamo stati veramente molto molto ordinati, tra le parti c'era quella distanza giusta per poter raddoppiare e ripartire. Il calcio è anche abbastanza semplice, è importante saperlo interpretare, e Fiorentina soprattutto nel primo tempo ha fatto veramente molto bene. Lui ha fatto molto di più che un salto, che l'anno scorso era sotto gli occhi di tutti, le abilità tecniche, la destrezza, il gesto tecnico, però era spesso in funzione a un suo movimento. Invece da quest'anno è proprio a servizio della squadra, i movimenti sono giusti, si fa trovare nella posizione giusta, poi nella fase di non possesso palla si mette bene, e quindi complimenti, perché quest'anno è arrivato con molta convinzione. Sì, senza dimenticare che una partita di alto livello hanno giocato tutti nella Fiorentina, tutti dal primo all'ultimo, con qualche eccellenza in particolare oltre a Jovetic. E mi pare che i due ex juventini, per esempio, sia Cristiano Zanetti che Lala, di cui in questo momento mi sfugge il nome per un'amnesia, mi auguro momentanea, Marchionni, mi sembra che abbiano giocato a loro volta una partita di grande qualità, e l'augurio per la Juventus è di non doversi pentire proprio stasera di aver fatto a meno di loro due. Abbiamo sentito Jovetic, abbiamo sentito Prandelli, sentiamo anche Benitez, perché insomma l'allenatore del Liverpool è certamente uno dei più autorevoli tecnici d'Europa. Ieri sera il Liverpool ha certamente sbagliato l'approccio alla partita, e questo suona a merito maggiore della Fiorentina, ma anche a demerito di una squadra che in genere questi appuntamenti non li fallisce, o accade molto molto raramente. Benitez. Chiaro che la miglior regola del calcio è il fuorigioco, si cambia tutto, cambia i movimenti delle difensori. Abbiamo fatto una mala partita, non è una scusa, questo gol per me significa che questa regola è stupida. La prima parte loro hanno fatto una buona partita con pressione in tutto il campo e noi perdiamo il pallone subito, non facciamo i movimenti, non facciamo niente. Scrive Mario da Modena: se avesse vinto la Juve 2-0 lei non avrebbe detto che il Liverpool non era in serata, vero? Mario, faccia lei. Se le è sembrato in serata il Liverpool di ieri, del primo tempo, e sottolineo del primo tempo, Allora va bene, allora probabilmente il Liverpool era in serata nel primo tempo. Non l'ha mai presa, non l'ha mai vista, sono convinto che sia uno di quei casi in cui i meriti della Fiorentina sono superiori ai demeriti del Liverpool, ma anche quelli, trattandosi del Liverpool, vanno comunque ricordati. Parlo del primo tempo. Nel secondo è stata, secondo me, ancora più brava la Fiorentina ad assorbire la sfuriata degli altri, che hanno continuato a non essere in serata sul piano della brillantezza, ma che sul piano della quantità hanno cominciato a farsi sentire alla maniera del Liverpool. Questo a casa mia non è assolutamente sminuire, è contestualizzare, col suo permesso. Giorgio, chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Io sono tifoso viola, quindi naturalmente quello che dico va in parte, gli va tolta la tara, chiaramente, per via dell'entusiasmo che oggi ci contraddistingue, insomma. Però dico, a mio parere la differenza fra la Fiorentina e l'Inter è che una squadra che la Fiorentina, in linea di massima, salvo rare eccezioni, cerca sempre di giocare a pallone. È una squadra che l'Inter, salvo rare eccezioni, non cerca mai di giocare a pallone. E poi volevo solo sottolineare l'ordine che ha dato alla Fiorentina in queste partite Zanetti rispetto al disordine che dava in qualche modo Felipe Melo, con inoltre 23 milioni di euro di differenza a nostro favore. L'ha detto all'inizio lei, Giorgio, no? Che probabilmente l'euforia le ha un po' preso la mano. Ho la sensazione di sì, oggettivamente. Avrei voluto sentirla una settimana fa, dopo il crollo della Fiorentina all'Olimpico. Restiamo a ieri e proiettiamoci pure sul futuro, prendendo appunto qualche termine di paragone che riguarda anche il passato come Melo, ma vediamo di non esagerare, anche perché credo che siano proprio questi voli pindarici poi che fanno male all'ambiente, alle squadre, perché fanno perdere il senso delle proporzioni. La Fiorentina anche in campionato è sullo stesso gradino dell'Inter, e quindi dopo questo avvio un po' balbettante si è sistemata. E come, la partita di ieri sera certamente le darà entusiasmo e nuove risorse, a patto, secondo me, ripeto, di non esagerare. Sentirei ancora un commento di un ascoltatore e poi cambieremo temporaneamente capitolo dopo l'intervallo. Maurizio dalla provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. La seguo sempre la sua trasmissione con molto interesse. Sono un milanista un po' caduto in disgrazia. Può gentilmente rispondere a queste domande? Secondo lei, Di Natale, se fosse brasiliano e si chiamerebbe Di Natalinho, giocherebbe in una grande squadra, faccio esempio del Milan, al posto di Unterhar, solo per fare un favore, acquistato solo per fare un favore al Real Madrid? 2. Pirlo è un calciatore sopravvalutato, gioca bene sì e no 5-6 partite l'anno. Viene decantato tanto dalla stampa per i suoi grandi lanci e la sua visione di gioco, peccato però che il Milan soffra sempre in difesa e Gattuso e Ambrosini ormai sono la frutta. 3. Capitolo Leonardo, è stato scelto dalla società non per la sua bravura sul campo, ma perché è uomo immagine, con la sua piuma fluente e il suo italiano quasi perfetto. Se lo immagina lei Tassotti in sala stampa con il suo tipico accento romano. 4. No, l'ultima. Allegri o Giampaolo allenano l'Inter e il gran comunicatore Mourinho e il Cagliari o il Siena. Secondo lei chi diventa un fenomeno, visto che i primi due già bravi già lo sono? Scommetto che al terzo non rimane che la parola. La ringrazio. Grazie a lei, Maurizio. Siamo andati un tantinello lunghi, come sospettavo sin dall'inizio, e quindi rapidamente le informazioni sul traffico dopo un'istruzione per l'uso, nel senso che ci sarà subito dopo questo breve intervallo una sorpresa speciale per i tifosi bolognesi e credo proprio non solo per loro. Torneremo più tardi a Fiorentina e Inter. Perché? Ma perché c'è una ricorrenza storica in settimana. Sabato 3 ottobre Bologna compie 100 anni e il giorno prima, cioè venerdì, dopodomani, gran festa al Dall'Ara, sin dal pomeriggio, che culminerà alle 21.30 nella partita esibizione del centenario. A seguire grande musica per arrivare con un opportuno countdown alla mezzanotte, e cioè al minuto giusto dell'anniversario del centenario. Canteranno alcuni dei tanti grandi cantanti bolognesi, e vorrei domandare a uno di loro che cosa ha intenzione di fare venerdì, se di giocare o di cantare. Buongiorno a Gianni Morandi. Salve Gigi, come va? Bene, molto bene. Allora, l'intenzione di cantare, quella, non lo so, bisogna vedere lì, i tifosi quella sera vogliono festeggiare tutti i calciatori della storia del Bologna, quelli che arriveranno, perché arriveranno tutti, arriverà perfino Clerici dal Sud America, è il gringo. Anderson dalla Svezia, Roberto Baggio, Mancini, Signori, Colivano e chissà quanti altri. E poi tutto il Bologna che ha vinto lo scudetto. Certo. E quindi sarà bellissimo essere con loro, vedere l'esibizione, vedere. Poi magari se hanno voglia di sentir cantare, a Bologna siamo in tanti a cantare. Sì, questo risulta effettivamente. Senti, ci sarà Carboni, magari Cremonini, forse arriva anche Lucio, Mingardi. Insomma. Beh, insomma, è una discreta batteria, mi pare. Senti, e se invece c'è bisogno di un mediano, sei allenato? Lì un po' meno, perché sui contrasti mi sono com'è? Infragilito, come dire, infragilito, le gambe. Sì. Facendo questa cosa di correre, perché io mi sono appassionato molto alla maratona, che, ed è un altro tipo di sport, è un altro tipo di... Le gambe si sviluppano degli altri muscoli e quindi ogni contratto mi fa magari perdere una settimana di corsa. Senti Gianni, con la passione c'è sempre. Ma figurati, facciamo un passo indietro abbastanza lungo. Quando e come, lo ricordi quando e come sei diventato tifoso del Bologna? Sì, ho visto la mia prima partita, un Bologna-Spal del 1963, mi pare. Sì. E giocava dell'Omo d'Arme nella Spal. Che è uno di quei nomi che rimangono. Che Bologna cominciava a essere veramente una squadra molto forte, che l'anno dopo avrebbe vinto lo scudetto. E c'erano già i Bulgarelli, c'erano già i Pascutti, i Perani, stava per arrivare Haller, forse Nielsen, quella grandissima formazione che poi veramente... Quindi... Poi lì, l'anno dello scudetto, sono successe delle cose particolari, perché... Sì. Ricordiamolo per i più giovani magari. Come il no? Bologna era in testa, poi gli vennero tolti 3 punti perché fu accusata di doping. Addirittura di doping. Sì. E qualcuno poi venne così accusato di aver infilato in queste boccette qualche cosa di insomma. E è andato avanti il processo per tanto tempo e alla fine la giustizia sportiva ha ridato i 3 punti al Bologna. E si trovò a pari punti con l'Inter. Con l'Inter. Quindi il 7 giugno del 1964. La trovo preparato, caro Morandi, in effetti. La trovo abbastanza preparato anche sulle date. Il 7 giugno del 64 fu una giornata incredibile. Ricordo che c'era una giornata di sole, molto calda a Bologna. Io non mi potevo muovere, non potevo andare a Roma per lo scudetto, ma mi fermai lì perché la sera dovevo andare a fare una serata in provincia di Mantova. Sì. Cantavo già da tempo io, certo. E ricordo una città proprio silenziosa e tutti chiusi in casa ad ascoltare la radiolina e il primo gol che fece Fogli, si sentiva un rumore sommesso dentro le case. Mi affacciai alla finestra alla fine del primo tempo e la strada è deserta, poi dopo insomma segnò anche Nielsen e lì fu l'apoteosi, fu una cosa meravigliosa che chissà se si ripeterà mai più. Ma non lo so, per il Bologna glielo auguro, come spareggio non si ripeterà mai più, perché è stato l'unico della storia del campionato italiano. Esatto, e non ci sarà più perché adesso valgono altri fattori, altri parametri, differenza reti, scontri diretti e finché ce n'è. Lo spareggio, che invece è di un fascino incredibile. Senti, c'è mai stato un attimo in cui, tra tante disavventure che Bologna, come tante altre, ha attraversato, un attimo in cui la tua fede ha vacillato? Ma no, guarda, no. Io sono sempre rimasto molto, molto legato ai colori rosso-blu. Certo che in quegli anni, per esempio l'82 e l'83, noi nell'82 conoscemmo l'onta, chiamiamola onta, della Serie B. C'erano 4 squadre che non erano mai andate in Serie B. Inter, Juventus, Milan e Bologna. Ora è rimasta soltanto l'Inter. È vero. Perché la Juventus, sappiamo, qualche anno fa, il Milan ci andò. Il Bologna, insomma, fu una cosa che mi provocò un dolore, come a tutti i tifosi bolognesi. Ci fu il presidente, adesso mi ricordo bene, che disse: resteremo solo un anno in Serie B. Infatti l'anno dopo andammo in Serie C. E fu il momento più terribile, perché senza volerne alla rondinella di Firenze, ma il calendario prevedeva anche rondinella Bologna. E perdemmo 2-0, questo è il bello. Sì. La cosa terribile. Bello. Io in quel periodo abitavo a Roma e devo dire che mio figlio Marco, che è un tifosissimo della Roma, è nato a Roma, quell'anno seguivamo la Roma che insomma vinse, fece anche tutta la Coppa dei Campioni, che poi andò a perdere con Liverpool in casa, quella famosa sera che Falcao non volle tirare il rigore. Seguivo la Roma perché c'era appunto mio figlio. Però ecco, non ho mai vacillato. Poi quando è tornato in B ci siamo anche divertiti. Gli anni di Maifredi, gli anni di Marronaro. Come no, del mitico Villa. Il mitico Villa. Villa. E poi gli anni spumeggianti che giocava anche molto bene. Il calcio a Champagne, e poi Maifredi venne ad allenare Bologna. Addirittura si fece talmente notare che lo chiamò la Juventus addirittura. E poi lì non ebbe una gran fortuna. No. Senti, di quella grande squadra non sto a chiederti la formazione del 64, perché dopo aver sentito le date e la memoria che Allegri, hai, Furlani, Spalinato, certo. Tumbur, Siani, Sfogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller, Pascutti. Perfetto. Salvo la finale che giocò Capra, non giocò Pascutti perché... va bene. Sapevo che mi avresti schiantato. Quello che volevo sapere è questo: dato che allora, pur essendo già una delle persone più celebri del paese, perché eri già Gianni Morandi a tutti gli effetti. Cominciavo allora. Insomma, comunque. Avevo appena inciso In ginocchio da te, che è una canzone che è diventata molto famosa. Avevi già cominciato a farti mandare dalla mamma, sappiamo dove. Avevi cominciato già a metterti in ginocchio da te, quindi diciamo che eri già per l'appunto Gianni Morandi. Quando vedevi il Bologna e quel Bologna che vinse il campionato, in chi ti immedesimavi? Ma guarda, io ero un fan di Ezio Pascutti e Lucio, anche Lucio Dalla, si portava addirittura, sai, quei portachiavi con la fotografia che volta che avevamo Pascutti attaccati qui ai pantaloni. Però la figura che ti rimane proprio nel cuore, emblematica, una di quelle bandiere che mai si scoloriranno e che erano appunto Rivera per il Milan, Mazzola per l'Inter, era grandissimo Giacomo Bulgarelli. Certo. Che poi abbiamo frequentato negli anni successivi, sia io che Lucio, insomma l'abbiamo sempre visto, poi allo stadio, poi facevo il commentatore per la 7, poi anche per la Rai, certo. Era ironico, era una persona intelligente, era un calciatore veramente completo, perché aveva un grande contrasto. Aveva un bellissimo tiro di destra e di sinistra, colpiva di testa, sapeva interdire, era un regista, era un leader, era un capitano nato. E molti dicono che è stato la più grande mezzala che abbia avuto l'Italia. Adesso l'ha detto anche lo stesso Capello, l'ha detto Rivera, l'hanno detto delle persone mica da ridere. No, certo, lo pensava Rocco, che tutti gli anni cercava di portarlo al Milan. Poi lui ha quel grave incidente sul ginocchio che poi condizionò anche la nazionale italiana, la famosa Corea, lui l'ha subita la Corea, insomma giocò con un ginocchio rotto Se c'è uno che davvero mancherà venerdì sera e poi sabato è lui. Senti, tra i tanti messaggi che arrivano in diretta, che naturalmente ti salutano, ti abbracciano, ti baciano, ce n'è uno molto bello che è firmato Susanna e dice: e so quanto sia terso in questo ottobre il colle di San Luca sopra il mare di teste che copre il cerchio dello stadio. Era un verso di Pasolini, citato da questa signora Susanna, che scrive e manda un bacio a Gianni. Io so che presto ti rivedremo su Rai 1, è vero? No, io voglio dire un'altra cosa. Dilla. In quegli anni lì, quando il Bologna ha sofferto così tanto fra B e C, io sono sicuro che molte squadre della Serie A, come il Napoli, come la Juve, il Milan, l'Inter, la Fiorentina, queste grandi squadre, gli mancava di venire a giocare allo stadio comunale di Bologna, perché Bologna è sempre passata come una città ospitale, con dei tifosi competenti che sapevano apprezzare anche le squadre. Poi insomma io avevo questa sensazione che dispiacesse un po' anche a loro che il Bologna non fosse in Serie A. Come no? E queste pene che abbiamo in questi anni, insomma. Anche perché allora, Gianni, c'era oltre che bello lo stadio, oltre che bello l'ambiente, oltre che la città di Bologna in sé, di una civiltà assoluta, c'era il cosiddetto manto, il prato del Dallara era il più bello d'Italia, assolutamente. Era il più bello. Era più bello. Lo dicevano tutti, venivano tutti volentieri, e insomma. Ho avuto anche la competenza dei tifosi bolognesi, forse, non so, la nuova generazione si avvicina un po' a quasi tutti gli ultras italiani o ai tifosi italiani. Sì. Però Bologna ha un sapore particolare, forse è più musicale, come dicevamo prima. Certo. Forse questa storia del mangiare, della cucina, della femminilità di certe donne bolognesi. Mettiamoci cosa anche vogliamo quello. Aggiungere ancora? No, io penso che siamo abbastanza messi bene così. Gianni, il tempo è volato e quindi oltre a ringraziarti e ad abbracciarti forte, credo che la cosa da fare sia di augurarti buon compleanno a questo punto. Sono 100 anni fantastici di una grande storia di due colori che ci accomunano, tra l'altro anche al Genoa, che domenica celebrerà con noi, speriamo, certo. Non lo so, con un pareggio, no? O con una vittoria, comunque vince un rosso-blu domenica. Ecco, questo è già guarda. I festeggiamenti appunto cominciano il giorno 2 e poi il 3 ci sarà poi la celebrazione, l'arcivescovo di Bologna, insomma, celebrerà, certo. Tutta la messa alla mattina. Il vero giorno è il 3 ottobre e poi domenica c'è Bologna-Genova, lì ci sarà il culmine di questi 3 giorni. Certo. Naturalmente lì i punti in palio contano e contano non solo per il Bologna ma anche per il Genoa, quindi insomma sarà una partita giocata. Ma il Bologna giocherà con la divisa storica del 1909, certo. E questa mi sembra un'altra. Comunque siamo contenti di essere arrivati a questo compleanno e speriamo che questo piccolo segnale del gol all'ultimo secondo per la delusione un po' dei tifosi juventini che ha segnato ad Ailton sia ben augurante per il Bologna per di oggi, insomma. Ecco. Sì, è il punto di svolta e è stato comunque un bel augurio per i 100 anni. Beh sì, ne avevamo bisogno. Grazie a Gianni Morandi. Grazie, a presto. Grazie. Ciao. Torniamo in onda, molti, un diluvio di messaggi ovviamente per Gianni Morandi e per il suo appassionato ricordo del Bologna, che ripeto, tra venerdì e sabato festeggia il centenario. Noi continueremo domani con una Marcord affidato questa volta ad Adalberto Bortolotti, che sapete è uno dei nostri, anzi il mio personale punto di riferimento quando si parla di calcio vero, e quindi Adalberto domani ci farà un punto sulle italiane in Europa e poi partendo da un magnifico articolo commemorativo per questo centenario che ha scritto sul numero del Guerino, del Guerin Sportivo di questa settimana, ricostruirà, come ha fatto Gianni Morandi, la sua passione del Bologna attraverso questi anni, attraverso la sua vita personale, non so come dire, prima e professionale poi. Adesso abbiamo molti altri ascoltatori a cui dare spazio, ci sarebbe qualche regolamento di conti, anche lo dico in senso molto affettuoso, con quell'ascoltatore di Chieti di prima, alcuni mi hanno rimproverato di avergli lasciato dire senza intervenire che Pirlo sarebbe un giocatore sopravvalutato. Io insomma, credo che ogni tanto ci sia qualche ascoltatore sopravvalutato, però insomma, la libertà d'espressione credo sia sacra, e oltretutto stavo leggermente più attento in quel momento al collegamento, insomma, con Gianni Morandi. Tocca Ugo da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. La ringrazio intanto del bellissimo intervento di Gianni Morandi, faccio gli auguri al Bologna per i suoi 100 anni e penso un po' con nostalgia che c'è stato un tempo in cui il Bologna vinceva gli scudetti. Per quanto riguarda la partita della Fiorentina di ieri, mi premeva sottolineare un aspetto che è quello dell'arbitraggio, cioè un arbitraggio che ha consentito alle squadre di giocare e di interpretare al meglio una partita corretta, ma comunque giocata con agonismo, arbitraggi che in Italia non si vedono. La ringrazio. Grazie a lei. No, che non si vedano non è vero, perché io ho visto recentemente dei buoni arbitraggi in Italia, certo ne ho visti anche degli infelici, ma ho visto degli arbitraggi che comunque vanno in questa direzione, cioè quella di lasciar giocare più di quanto non si lasciasse giocare prima, fidando nel senso di responsabilità dei giocatori. Parlo di durezze e di interventi scomposti da tenere sotto controllo. Per esempio, ha molto ben arbitrato, mi pare, Brighi l'altra sera in Milan-Bari, e altrettanto bene mi sembra sti arbitrando Rizzoli quest'anno in genere. Dopodiché un buon arbitraggio dipende anche, anzi soprattutto dal buon comportamento delle squadre. In genere in Champions League le squadre si comportano molto meglio che non nel nostro campionato, ma i nostri stessi giocatori italiani, con qualche eccezione, avete capito chi, si comportano meglio in Europa che non in Italia. Questo non quest'anno, è storia vecchia. Mauro ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo chiederle questo, non sembra che il nostro calcio in questo momento attraversi un momento di appannamento? Nel senso che la Juventus fa fatica a vincere col Bologna, è stata messa in difficoltà a Livorno, col Chievo è uguale, il Milan domenica abbiamo visto cosa ha combinato, la Fiorentina tranne ieri sera nelle ultime partite non ha brillato, l'Inter lasciamo perdere perché l'Inter è stata rinforzata il 40% rispetto a mio avviso. Rispetto all'anno scorso, allora in questo momento non pensa che le nostre squadre che fanno la Coppa dei Campioni abbiano dei limiti? Sì, non in questo momento, penso che ci siano dei risultati che parlano e che confermano che da almeno due stagioni questa tendenza c'è e probabilmente quest'anno avrà una conferma o potrebbe avere una conferma dagli inizi che si vedono, no? Infatti è per questo che la vittoria così meritata, così larga della Fiorentina sul Liverpool è un segnale di controtendenza. Poi che nel campionato le grandi stentano, ma insomma gli avvii delle grandi non sempre sono particolarmente brillanti. Anche l'anno scorso c'era stato margine per altre squadre all'inizio e poi era sparito in fretta. Vediamo quest'anno se la Sampdoria, la Fiorentina, insomma quelle che stanno facendo anche tanti punti oltre che giocando in un certo modo a pallone. Vediamo se il Bari, che in compenso sta giocando benissimo a pallone anche se di punti ne ha fatto meno, vediamo fino a quando durano, speriamo il più a lungo possibile. Luigi, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei fare un piccolo appunto e una domanda, se è possibile. La piccola critica è, la sento dire spesso, che ormai è da anni che lei non frequenta più gli stadi, per motivi di sicurezza o meno altro. Quindi, no, di disgusto è diverso. Ah, ok, però mi sembra che facendo una trasmissione radiofonica come lei, questo non può portare ad allontanare anziché ad avvicinare quelli che possono essere genitori con i propri figli allo stadio. Io e poi gli consiglio di non portarli, infatti. Non, cioè, se io... Però magari vivendola un po' di più, visto le nuove normative, magari esperienze come Udine e Firenze che stanno battendo quelle che sono quando queste esperienze si consolideranno, cambierò molto, ma molto volentieri opinione. Per il momento io credo che al di là della sicurezza non sia educativo portare dei ragazzi in uno stadio, così come non sarebbe educativo portarli in Parlamento. Insomma, ci sono un sacco di posti che secondo me per far crescere i figli sani in questo momento ed educati non è meglio evitare. Questa è la mia sensazione, la mia impressione. Luigi, però lei stava continuando. Non ho capito, mi scusi. Lei stava continuando però il suo intervento. Sì, sì, sì, stavo dicendo, mi sembra sempre uno spettacolo sportivo. Ecco, la domanda provocatoria era se le iniziative di Udine e Firenze potevano invogliarla a rientrare allo stadio e vedere finalmente, magari riprovare quelle emozioni che magari ha vissuto una volta, ecco, perché forse bisognerebbe fare un po' più di pubblicità a queste strutture, a queste società. Ma no, bisognerebbe, è giusto segnalare che ci sono dei tentativi, no? di svolta. Sono per il momento un po' sporadici e soprattutto necessitano di verifiche. Ieri a Firenze è successa una cosa bellissima, indubbiamente, perché non solo la Fiorentina ha vinto, ma c'è stata una accoglienza di assoluta civiltà dei fiorentini e dei tifosi del Liverpool, c'è stata integrazione, c'erano meno barriere, insomma è stata indubbiamente una festa per il calcio. Io continuo a pensare che con tutto quello che abbiamo alle spalle e con l'humus in cui si muove tuttora il calcio italiano ad alto e anche a basso e bassissimo livello, prima di dire che una rondine fa primavera ci andrei pianino, però se così invece sarà, nessuno più contento di me. Sentiamo la vigilia juventina, e cioè la vigilia di Ferrara della trasferta a Monaco. È chiaro che in questo momento abbiamo un solo punto in classifica e dobbiamo fare una grande partita, perché se per loro è un match ball, insomma, e sarà dura chiaramente per noi, non è che per loro sia tanto semplice, ecco, affrontare questa Juventus. Quindi ce l'andiamo a giocare senza timore, con rispetto chiaramente dell'avversario, ma con grande personalità. Io penso che questa squadra, e ho in squadra dei giocatori e dei campioni che possono sicuramente fare una grande, grandissima prestazione. Tocca a Giuseppe dalla provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno Garanzini, è sempre un piacere sentirla. Ascolti, due domande velocissime. Quanti allenatori italiani secondo lei sarebbero capaci di allenare l'Inter attuale, facendo risparmiare a Moratti circa 20 milioni di euro l'anno? Quelli di Quaresma? Intende quelli di Quaresma? Intende quelli di Quaresma in particolare, o perché erano più di 20, credo, di ricordare? Di Mourinho, dico. Lei parla dello stipendio di Mourinho. Ah, se ci mettiamo Mourinho. Se ci mettiamo Mourinho e il suo pupillo, credo che il risparmio sarebbe anche più alto. E poi la seconda domanda velocissima: perché l'Inter come società difende sempre a spada tratta tutte le dichiarazioni di Mourinho che fa sui giornali e in TV? La ringrazio, l'ascolto per radio. Giuseppe, io credo che questa difesa a spada tratta sia relativa, cioè credo che ogni tanto lo difendano come è giusto, come aziendale che sia. Credo che ogni tanto siano i primi a trasalire invece, e che credo anche che farebbero a meno di molti degli esplorati dialettici di Mourinho. Però l'hanno voluto, se appena avessero inteso prima informarsi su che tipo era, avrebbero avuto tutti i parametri necessari già dai tempi del Chelsea, e quindi insomma l'hanno voluto così, e adesso se lo tengono, il verbo da usare è tengono. Fabrizio da Milano domanda se per una testa calda come Balotelli potrebbe servire un allenatore tipo il Berzot dei bei tempi. No, secondo me no, perché Berzot faceva l'allenatore della il selezionatore, l'allenatore nazionale, e per una testa calda come Balotelli ci vuole un l'allenatore di tutti i giorni, cioè ci vuole potrebbe essere il contatto quotidiano quello che lo aiuta a maturare. Penso a un, mi viene in mente Lidl, mi vengono in mente dei grandi del passato, ma ce ne sono di bravissimi anche nel presente. Ho l'impressione però che Balotelli sia oltre e che sia proprio un'impresa disperata. Mi pare di aver visto ieri di aver sentito e visto cose abbastanza significative da parte dei suoi compagni, a parte il suo allenatore che è stato molto duro, giustamente. Ho colto una battuta televisiva ieri sera di Mourinho che diceva: sì, andiamo avanti per i prossimi 5 anni a parlare di maturità o qualcosa di questo genere, che significa qualcosa di serio. Ma ho letto dichiarazioni di Zanetti e di Maicon tutt'altro che tenere nei confronti di Balotelli, e in televisione ho visto che nel momento in cui c'è una sequenza precisa, mentre Balotelli è a braccia larghe davanti all'arbitro e sta non protestando, ma insomma sta è lì fermo che aspetta di uscire, arriva Eto'o e di corsa, e gli fa un gesto molto eloquente con la mano, tipo va fuori, cioè togliti da, ecco. Mi è sembrato l'ho visto, e questo secondo me la dice lunga sul fatto che il bonus è praticamente finito anche all'interno della squadra. Questo sarebbe e forse è il segnale il segnale peggiore. Ripasso storia, come tutti i giorni. 30 settembre, Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 settembre 1981. La Juventus si qualifica per il secondo turno della Coppa dei Campioni, battendo il Celtic Glasgow a Torino per 2-0. I bianconeri ribaltano l'1-0 subito in Scozia con i gol di Bettega e Virdis. Juventus-Celtic è la prima sfida delle coppe europee mandata in onda da un'emittente televisiva commerciale italiana. Canale 5 aveva infatti acquistato, malgrado le rimostranze della Rai, i diritti per le sfide casalinghe di Juventus, Roma e Inter. Juve-Celtic viene trasmessa in diretta alle 20:30 nella sola Lombardia e indifferita sul territorio nazionale il giorno dopo, attraverso i canali che aderiscono al circuito di Canale 5. La telecronaca è affidata a Giuseppe Albertini, voce storica della televisione svizzera italiana. Voce storica e grande telecronista, secondo me il migliore, per come lo ricordo, il migliore di sempre. Giuseppe Albertini, Bepi per gli amici, un signore, un vero signore d'altri tempi di Lugano, che appunto quella sera debuttò a un'età già molto matura, direi anche avanzata, ma insomma debuttò in quella veste, in questo evento che Nicola Filippone ha ricordato, dopo una lunghissima militanza radio-televisiva di alta classe. Prima del gran finale con gli ascoltatori, sentirei però anche l'ultima vigilia delle squadre italiane impegnate in Europa, e cioè quella del Milan e di Leonardo. In Champions League abbiamo una partita, direi un risultato importantissimo, quello di Marsiglia. Dopo credo che se pensiamo alle 6 partite di campionato, una in Coppa, alti e bassi, credo che quello è chiaro, però... che sono partite sempre molto diverse, affrontate in un modo diverso, con squadre che giocano moduli e anche obiettivi diversi, per quello sicuramente una partita per noi importantissima. Young Boys è il primo in classifica, quello sai, sono quelle cose che vai a vedere, diciamo, le ultime partite, fai i tuoi conti, ma serve fino a un certo punto. Motivazione di giocare in Champions, peso di riga enorme, gioca a San Siro contro il Milan, non credo che motivazioni manchino. Per quello non è da vedere se hanno perso e hanno vinto l'ultima partita, hanno perso anche con altre squadre in Svizzera, però non credo che sia... ma la cosa dobbiamo pensare a noi. Tocca a Stefano da Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo veramente una sua considerazione riguardo sta coppia Quagliarella-Lavezzi. Io non vedo sto Quagliarella come giocava nell'Udinese a Napoli, non lo so, è colpa perché Lavezzi gli continua a girare intorno. Volevo un suo pensiero, grazie. È tutto il Napoli che sta girando intorno, no? Sta girando in tondo in questo momento, mi pare. E i primi a risentirne sono sempre gli attaccanti, perché quando i palloni arrivano pochi, quando la palla arriva tardi, quando non ci sono i tempi giusti delle giocate, quando insomma, è dura, e ripeto, i primi a risentirne sono loro. E Toi ieri sera ad un certo punto sembrava un giocatore inutile, e invece non era partito male, anzi, però se poi l'iniziativa negli altri e l'ultima mezz'ora oltretutto la devi giocare in 10, perché uno si fa cacciare, la vita dell'attaccante diventa dura. Credo che sia il problema che Quagliarella ha avuto in queste giornate. Fermo restando che Quagliarella non è mai stato, secondo me non sarà mai, un giocatore da rendimento molto costante, no? Quagliarella è un signor attaccante, ma più da impennate, da prodezze, che non da grande costanza di rendimento, mi pare. Daniel ha chiamato da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo una sua riflessione riprendendo il discorso di un telespettatore che ieri aveva detto che i grandi allenatori sono tutti stati o sono difensori e centrocampisti. Io credo che questo sia ovviamente vero. Perché? Perché gli attaccanti fino a qualche anno fa erano abituati a giocare con la faccia della porta, diciamo, in fronte a loro, mentre da qualche anno a questa parte si è preso l'abitudine, per fortuna, di far giocare l'attaccante spalla alla porta. Quindi credo che nel ricambio generazionale avremo fra qualche anno, come giustamente ha fatto riferimento lei, Cruyff, che non si sa se era un attaccante o un centrocampista, però abbracciava questi due aspetti, Spero che, essendo stati attaccanti, avendo giocato spalla alla porta, quindi avendo visto lo sviluppo dell'azione, avendo partecipato più all'azione, i prossimi allenatori siano attaccanti, perché spero che nello scegliere tra una tattica offensiva o quella difensiva, che ci portiamo ormai dietro da 50 anni, scelgano sempre quella offensiva. Grazie. Vabbè, questa è una curiosa teoria. Può darsi che succeda. Io ho visto, in tanti anni ho visto dei grandi difensori diventare o centrocampisti di copertura diventare allenatori coraggiosi. Ho visto dei giocatori invece, come dire, d'offesa diventare grandi difensivisti. Credo che non siano questi i parametri, cioè delle origini da calciatore. Quello che diceva ieri l'altro ascoltatore era diverso e mi sembrava più condivisibile. Franco, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Niente, volevo fare una considerazione a proposito sempre del discorso legato ai giovani, Balotelli fra questi. Però mi sembra che soprattutto noi in Italia si cerchi di anticipare sempre il titolo di campione a proposito di questi giovani, perché se questi giovani hanno qualche neurone che effettivamente non è ben collegato, purtroppo nel giro di un paio d'anni si perdono. Non c'è solo il caso Balotelli, ma le dico subito, vedo molto male, anche se con altre caratteristiche, il Pato attuale, che è stato definito per tempo grande campione, lo stesso terzino dell'Inter, di cui mi sfugge il nome, lo stesso Giovinco, purtroppo, che poteva essere... mentre fra i giovani, guarda caso, lì c'è una famiglia che ti appoggia, quindi c'è una testa veramente a posto, vedo molto bene il Marchisio della Juventus. Su Marchisio sono d'accordissimo, sul resto ci andrei piano, nel senso che il caso, insomma, lei sta parlando di giocatori che si smarriscono magari tecnicamente o tatticamente e non è il caso di Balotelli anche ieri in una giornata non brillantissima aveva inventato una giocata sensazionale quando ha preso quella traversa in un nanosecondo. Il problema è un altro per Balotelli, mi sembra un problema molto più serio. Tempo scaduto, quindi grazie a Carmelo Lauricelli in regia, grazie a Laura Vanossi in redazione, appuntamento a domani.